Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Vai Milan, vai, vai, inizia la puntata prima che il mercurio nelle vene mi trasformi in un robot e il 5G mi devasti. Dai Milan, vai! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. E allora eccoci qui, cari ascoltatori. Leonardo Manera, subito gli scriviamo: vieni oggi, perché è un po' nuvoloso. Mi sono svegliato, ho detto, aveva detto che sarebbe venuto, ma con questo tempo che fai, Leonardo? Così, appello in diretta, e questa è Radio Vera. Appello in diretta. 9-8 minuti, ci siamo in una puntata oggi spumeggiante, lo so già, perché i temi sono tanti, svariamo di qua e di là e siamo pronti con l'Alpino in regia, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Miriam Luchetti in redazione, Leonardo Manera chissà se arriva o no, e voi al 349-238-6666, messaggi e WhatsApp. Dai, vai Alpino, subito, scateniamoci. It will not be easy. And it will not be easy. E allora ci avete preso gusto. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Qui cantava ancora con Peter Tosh. Cioè, ragazzi. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Allora, signori. Adesso come faccio io a parlare? Vabbè. Vi vedo nelle vostre macchine imbottigliate nel traffico a ballare il reggae. Allora signori, 9-9 minuti. Siamo qui oggi, ricordo che da 30 giorni 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti, vorrei dire detenuti, a Bengasi, con accuse non meglio specificate, con l'accusa certo di avere violato le acque territoriali libiche nell'atto della pesca. Potrebbero andare a processo da un tribunale militare, davanti a un tribunale militare. Da 30 giorni, noi ce ne occupiamo tutti i giorni, tengo questa conta e vorrei interromperla il più presto possibile. Da 30 giorni 18 pescatori di Mazara del Vallo sono in Libia. Tra l'altro oggi sulla Verità leggo di questa vicenda avvenuta ieri, che ha coinvolto un'imbarcazione di pescatori tunisini e una nave militare italiana. Con l'imbarcazione tunisina che aveva sconfinato e venne entrando nelle acque territoriali italiane per pescare, ha tentato una fuga, c'è stato anche, pare, uno speronamento con la nave militare italiana che ha sparato 400 colpi in aria inseguendo questo peschereccio, poi ha arrestato il capitano di questo peschereccio tunisino. Ma sono certo che noi da paese civile accerteremo il fatto, e poi non è che metteremo in carcere questo capitano tunisino per 30 giorni o più con accuse che non si capiscono. In ogni caso, signori, io poi cercavo notizie sui giornali, ci sono tante notizie molto interessanti, parleremo tra poco di questa vicenda che riguarda una cittadina italiana che è rientrata in maniera così trafelata dalla Siria, ma spiegheremo tutto con i suoi figli. Uno cerca le notizie sui giornali dappertutto, ma la notizia a volte uno ce l'ha in casa. Io ho sentito poco fa il senatore del Movimento 5 Stelle Mollame, intervistato da Simone Spezia, è uno dei due che ha preso il Covid, e il senatore Mollame a un certo punto ha detto ha spiegato il motivo per cui non ha scaricato la app Immuni a Simone Spezia. Sentite cosa ha detto, è senatore della Repubblica Italiana. Senta, senatore, Immuni ce l'ha, l'ha scaricata o non l'ha scaricata? Ma questo è, io ci provai allora, ho avuto qualche difficoltà col mio apparecchio, ci provai un paio di volte e non ci sono riuscito. Il suo telefono che ha un problema tecnico per cui non riesce a scaricare Immuni? No, guardi, io ho probabilmente di saturazione dell'apparecchio. Ho scaricato, ho cancellato altre applicazioni, ma non ci sono riuscito ugualmente, non so per quale. La saturazione, ragazzi, anch'io sono, lo dico per me stesso, un cane dal punto di vista informatico. Quando ho dei problemi alzo il telefono, chiamo il mio amico Amit israeliano e gli dico: Amit, scusa, ho un problema sulla linea wifi, ho un problema, cioè se ho un problema di saturazione, a parte che magari prima tolgo Candy Crush, tolgo una serie di giochi, cioè io non, sarà successo così, caro senatore Mollame, ma non vada a dirlo in giro, non lo dica come non ho scaricato Immuni perché avevo un problema di saturazione del telefono. Non è una bella figura. Chiami il suo Amit, io Amit, ma ce ne sarà un altro lì in Sicilia, e si faccia installare questa app Immuni scaricando, togliendo due o tre come dire applicazioni poco utilizzate e via, dai, non lo dica, non è una bella figura, sarà successo così, ma non è simpatico sentir dire ho un problema di saturazione della memoria dello smartphone. È così, nel 2020 non si può sentire, non si può sentire. Ecco Peter Tosh. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna, we gonna stand up for a right. Yeah. So vabbè, ringrazio Serena che mi scrive che sta ballando in officina con Bob Marley. Succede così, è l'allegria e la gioia fatta a persona. Però entriamo nel primo tema che vogliamo affrontare oggi, 9:14 minuti. Vogliamo raccontare in breve, ma tramite dei protagonisti che possono dire qualcosa di interessante, la storia di Alice Brignoli. Chi è? È stata chiamata mamma Isis, donna Isis. È una donna italiana che qualche anno fa da Bulciago, un paesino in Lombardia, ha deciso insieme al marito musulmano, che nel frattempo è morto combattendo in Siria, di andare appunto in Siria perché lì c'era il califfato, nell'ideale, lì c'era il paradiso. Questo leggo da pare dal primo interrogatorio di Alice Brignoli, che in questo momento è tornata in Italia, è in carcere, risponde di terrorismo internazionale. Le sue parole, secondo me, e saluto Daniele Raineri del Foglio. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Le sue parole di ieri dovrebbero, secondo me, essere scolpite su tutti i giornali in prima pagina. Credevo fosse un luogo idilliaco, mentre andare in Siria è stato un errore. Credevo di trovare il paradiso, credevo di stare bene e invece abbiamo visto solo la guerra. Tu, Daniele, la incontrasti, Alice Brignoli, in quell'immenso campo dove si trovava fino a qualche tempo fa? Sì, io l'ho incontrata a Lol, che è un campo gestito dalle forze curde nella Siria orientale. È un campo immenso, una tendopoli dove i curdi hanno sistemato in modo provvisorio, ma temo che ci saranno per molti anni, e le famiglie dello Stato islamico. È un campo abitato in maggioranza dalle famiglie siriane e irachene, ma c'è anche un sottocampo per le famiglie straniere dello Stato islamico, e lì hanno piazzato Alice Brignoli e i quattro figli. E i quattro figli. E quando l'ha incontrata, forse diceva cose diverse, se ricordo bene, no? Sì, mi colpì molto che fu lei poi a venirmi. Io avevo girato il campo tenda per riuscire a trovare l'italiana, ma non mi rispondevano. Il è pieno di fanatici dell'ISIS che non parlano volentieri con un giornalista straniero, con un israeliano, e però la voce era circolata e lei mi aveva raggiunto proprio poco prima che io lasciassi il campo e uscissi dal reticolato, e si era fatta avanti, aveva iniziato questa conversazione. Diciamo che era ancora molto fanatica si aspettava che i combattenti dello Stato Islamico riuscissero un giorno o l'altro a liberare tutti i prigionieri del campo, quindi a riprendersi le donne, e si aspettava questo, diciamo, nell'ambito di una rimonta dello Stato Islamico, che effettivamente negli anni scorsi c'è già stata, lo Stato Islamico aveva già perso in modo disastroso tra il 2008 e il 2010, e poi è ridiventato quello che abbiamo conosciuto, ha preso diciamo molti territori in Iraq e in Siria. Lei sperava in una rimonta del genere, però già il fatto che si fosse fatta avanti con un giornalista italiano, secondo me, dimostrava che dentro di lei incominciava a vacillare, anche perché non dimentichiamo che era assieme a quattro bambini in un campo dove le condizioni sono orrende. Terribile. Ma in questo, infatti, mi permette, caro Daniele Raineri, di introdurre, e lo ringrazio, il procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Milano, Ciro Cascone. Buongiorno, dottor Cascone, ben ritrovato qui a Radio 24. Buongiorno a voi tutti. Perché grazie, tutti i giornali hanno sottolineato l'azione, possiamo dire, viene usato questo aggettivo giustamente, umanitaria, che le autorità italiane stanno cercando di portare avanti. Va bene, c'è una donna che ora dovrà rispondere di reato di terrorismo internazionale, che è un reato molto molto grave. Ci sono appunto quattro bambini che all'epoca avevano, il più piccolo 2 anni, anzi uno forse è nato in Siria, gli altri 2 anni, 4 anni. Esatto, l'ultimo è nato in Siria. Dai 6 anni, 4 anni, 2 anni e uno nato in Siria. Allora, c'è un tema che è internazionale, si pongono tutti gli stati di persone che sono andate via dai loro paesi per andare a combattere con l'ISIS, a dire: che facciamo di queste persone e dei loro figli? Li vogliamo recuperare alla società? Li vogliamo salvare? Li vogliamo rieducare? Io dico anche questa parola. Questo è un tema che vi investirà, caro Ciro Cascone, con questi quattro ragazzini. Sicuramente è il tema per quanto riguarda diciamo l'autorità giudiziaria minorile, l'interesse è focalizzato su questi quattro bambini. Io direi, per riprendere un suo termine, più che rieducare, educare. È vero, hanno avuto un imprinting finora educativo molto negativo, sicuramente, ora al di là dell'eventuale volontà di indottrinamento, di radicalizzazione già di questi bambini, che la mamma aveva la foto in tuta mimetica dei figli come sfondo di WhatsApp, va bene, sicuramente hanno vissuto dei momenti e degli anni molto traumatizzanti, certo, appunto in queste condizioni in cui sono stati trovati. Ora si tratterà di capire, ed è quello che si farà prossimamente, noi chiederemo al Tribunale, appunto al Tribunale per i minorenni, di emettere provvedimenti a tutela di questi minori, e bisogna vedere il loro stato psicologico com'è. Tra l'altro i due più grandi parlano, almeno comprendono l'italiano, gli altri nemmeno questo, appunto sono l'ultimo è nato in Siria, figurarsi, parlano solo arabo. E poi bisogna capire appunto come recuperare loro, come recuperare i rapporti familiari. Sì, esatto, e chi li deve crescere? C'è una mamma di Alice Brignoli, che peraltro ha rilasciato scarne dichiarazioni di netto distacco. Ha detto addirittura: non è mia figlia quella che è tornata dalla Siria, non ne voglio sapere nulla. C'è da dire Dove pensa che inizialmente possano crescere, in una qualche comunità, questi figli? Sicuramente attualmente sono in una struttura protetta, dove bisognerà osservarli e capire come aiutarli a uscire da questo incubo che hanno vissuto finora, perché di questo si tratta, di un incubo per questi bambini, e poi andranno ripresi gradualmente, ma questo valuterà appunto il Tribunale per i minorenni insieme agli operatori, agli educatori che seguiranno i bambini, i psicologi, come riprendere i rapporti familiari, appunto la mamma da un lato, ma la nonna, quindi il contesto familiare, perché hanno un contesto familiare anche, passatemi il termine, sano in Italia. Sì, io vorrei tornare per un attimo da Daniele Raineri. Questo è un tema, dicevo, su cui tutti gli stati si interrogano, per la verità non solo per i figli, Daniele, ma anche per i protagonisti in sé. In Inghilterra il dibattito, per esempio, c'è molto molto serrato, a dire: ma se uno dalla Siria ci chiama, anche un trentenne, anche uno che è andato a combattere, a dire: io ho sbagliato, voglio tornare nella società, mi pento, ho commesso un errore, lo Stato di cui questa persona è titolare di passaporto, cosa deve fare? Ma c'è la tentazione di usare il Medio Oriente un po' come una discarica di scorie radioattive e di lasciare là gli elementi che si sono radicalizzati in questi anni, e però secondo me è una tentazione sbagliata. Ogni Stato si deve prendere la responsabilità dei propri estremisti. Se l'Europa lascia che centinaia di estremisti arrivino in Medio Oriente a uccidere e torturare i locali, poi è responsabile e deve riprenderseli, anche a costo di tenerseli in prigione a vita e di controllare, diciamo, di anno in anno se sono meno estremisti oppure no. Cioè, ci sono molti rischi, perché effettivamente c'è gente che è andata ad arruolarsi nello Stato Islamico che già era conosciuta alle forze dell'ordine, aveva già passato degli anni nelle prigioni per terrorismo e che poi comunque è sempre recidiva, ossia non riesce a tornare indietro. Però c'è proprio un fattore di responsabilità e c'è anche un fattore di opportunità, secondo me, perché questa è gente che parla perfettamente la lingua del proprio paese di origine, italiano, inglese o francese, non è detto che non riesca a evadere da questi campi dove le condizioni sono molto precarie. I curdi in questo momento sono in stato di tregua con la Turchia, ma la guerra potrebbe ricominciare da un momento all'altro. Ci sono molti casi di evasione. Sì. Ecco, preferisco che la Gran Bretagna vada a riprendersi i propri estremisti e li metta nelle celle, che saperli in un campo provvisorio nella Siria orientale, dove non sai poi cosa succederà. Sì, meglio occuparsene piuttosto che... Sì, se questi qua riescono a tornare, un passaporto europeo falso a Istanbul non è così difficile da... Certo. Ma invece la tentazione dell'Occidente è un po' di pensare, ma sì, lasciamoli lì, solo che se uno li lascia lì rischiano davvero di riradicalizzarsi o di rientrare in azione, meglio forse occuparsene anche con le carceri italiane. Chiederei al dottor Ciro Cascone se esistono dei programmi specifici per affrontare questa situazione, perché è una situazione relativamente nuova negli anni, cioè affrontare con programmi di, non so come chiamarli, deradicalizzazione. Quelli sicuramente sì. Da un po' di tempo che gli esperti anche nel nostro paese ci stanno lavorando, in qualche caso l'hanno cominciato ad applicare addirittura anche su qualche minorenne, per aiutarla a uscire da questa fascinazione, ecco, in cui era caduto, perché a 15 anni è molto più facile che a una certa età, però ci si può lavorare con un minore. Però esistono dei programmi specifici che a questo punto vanno attuati. Con i minorenni, con gli adolescenti sicuramente è più facile. Esatto. Lavorare. E forse anche con i bambini più piccoli, cioè prima si interviene è meglio. I bambini piccoli sicuramente. Meglio è. Io per il momento vi ringrazio, sia Ciro Cascone, procuratore del Tribunale dei Minorenni di Milano, Daniele Raineri del Foglio. Grazie a voi. La questione, ci sono tante domande, giustamente molti ci scrivono, c'è sempre, le abbiamo riportata in aereo a nostre spese, è stata arrestata, cioè è stata fatta un'operazione di... polizia giudiziaria, se volete, nel senso che la madre è stata portata dalla Siria, certo con un aereo, come dire, dello Stato italiano, ma appena atterrata sul suolo italiano è stata arrestata e si trova ora a San Vittore, carcere di Milano, e dunque risponde delle accuse pesantissime di terrorismo internazionale. Parallelamente con questo intervento è stata fatta, come ho detto, un'operazione umanitaria, cioè i bambini, invece, quattro, loro, siamo tutti d'accordo che sono vittime, o c'è qualcuno che ci vuole scrivere che anche i bambini di 2 anni, 4 anni, uno nato in Siria, sono complici del terrorismo internazionale? No, perché magari c'è anche qualcuno che sostiene questo, allora io mi arrendo, alzo le mani. Invece i bambini sono vittime di questa situazione e quindi insieme all'arresto si sta portando avanti una operazione umanitaria per cercare di salvare questi bambini e farli crescere in una società più sana, sicuramente non radicalizzata, e capire se è stata inculcata a loro qualche idea che rischia poi di far danni a tutti noi, a tutti quanti in futuro. Tra l'altro devo dire che, come scrive un'ascoltatrice, sì, l'ho detto in apertura, dice tra l'altro questi figli non hanno il papà, perché il papà, che era credo tunisino, comunque musulmano, è lui che in qualche modo avrebbe convinto la moglie ad andare in Siria, è morto lì nel campo che ci ha descritto poco fa Daniele Raineri. Va bene. Quando uno ci scrive perché Silvia Romano non è stata arrestata, caro Giacomo, allora mi arrendo, cioè, Silvia Romano, secondo Giacomo Bergamasco, invece di essere stata sequestrata per un anno e mezzo, è colpevole. Vabbè, allora sì, ogni tanto bisogna dire alzo le mani, mi arrendo, per favore, se potete, caro Giacomo, non sparare. Guarda, ho le mani ben alte in vista. Vado un attimo in pubblicità e poi credo di aver visto, non ne sono sicuro, Leonardo Manera. Forse è una visione, ma forse no. Uno, nessuno, 100 Milan. Bravo Milan, è proprio così, non si può sentire, chi dovrebbe dare gli esempi, avere problemi di saturazione, pure nonno riuscirebbe a installare l'app Immuni. Ci sono telefoni, come molti hanno scritto, l'iPhone 6 per esempio, se non hai delle applicazioni aggiornate non si, però la saturazione della memoria, vabbè, è un problema la saturazione della memoria. Attenzione! Buongiorno. Attenzione. Buongiorno, sono sempre qui presente come tutti i giorni in studio, sì. Nonostante io subisca mobbing da questo signore qui davanti a me che sostiene che io non mi presento, cerco scuse, non è vero, ieri ero bloccato nel traffico. Ringrazio la signora che riportava le notizie del traffico, che mi ha dato personalmente solidarietà, grazie. Sì. Io sono sempre... pensavo ancora in Corso Milano al 40. Il numero 40, Centro Estetica Domus, chissà se gliel'hanno riportato e riferito, ma oggi sono qui presente. Ringrazio anche il signor Marco che mi ha lasciato che io non conosco, ma che mi ha lasciato la colazione pagata al bar Jimmy. Grazie Marco. Non so se vi rendete conto, io sono qui, nessuno che mi... paga uno straccio di niente, nessuno che mi offre niente. Alpino, vuoi offrirmi mezzo caffè oggi? Lo mettiamo in due tazzine separate per il Covid. Invece lui non lavora, non viene. Traffico e colazioni pagate. Devi spiegarmi qual è il segreto di questo. Inviterei il signor Marco a tornare anche la settimana prossima più volte al bar Jimmy e lasciarmi la colazione pagata. Poi in questo circolo virtuoso io lascerò mezza brioche a mia volta, come ho fatto anche stamattina, ne ho lasciati tre quarti anzi di brioche al prossimo avventore, al successivo avventore. Ti vedo dimagrito, del bar. Lasci tre quarti e mangi solo un quarto. Perché sono diventate più grosse le brioche del bar Jimmy. Lui dice che è perché lievitano di più, non so se sia una teoria attendibile. Jim. Comunque la saturazione del telefono è un problema. È io un non... problema. Dove metto io? La App Immuni? Togli Candy Crush. No, Candy Crush, ma non so dove si mette sul cloud, come si fa, non lo so. Bisognerebbe fare un backup, scaricare tutto e ripartire da zero. Vabbè. Oppure fai come me, chiami il mio amico Amit, vieni, ho un problema, aiutami. E lui viene e ti sistema, tu gli offri un bicchiere di vino e amici come prima. Allora, va bene signori, dalle 9.35 adesso dobbiamo parlare di un tema molto serio, molto profondo, anche delicato. Per la verità noi abbiamo già affrontato questo tema in passato, quando vi ho parlato di questa figura, di questo fenomeno social che risponde al nome di Jonathan Galindo, che è un personaggio che esce un po' dal passato, una sorta di maschera, di un topolino mostruoso che compare in vari profili social, si presenta come una sorta di uomo mascherato con un cappuccio, con l'aspetto del Pippo della Disney, deformato, e indurrebbe molti ragazzini, adolescenti, ovviamente un po' suscettibili, a fare delle cose, a fare dei giochi social. Addirittura si dice che dietro il suicidio terribile di un ragazzino di 11 anni di ieri a Napoli ci possa essere questo tipo di gioco. Io saluto Alberto Rossetti, psicologo, torna con noi. Buongiorno Rossetti. Buongiorno a voi. Ovviamente dobbiamo usare mille condizionali, e vista anche la delicatezza di questa tragedia, non sappiamo, non ci sono certezze, però qualcosa si può dire, come avevamo fatto l'altra volta sulla questione di questo di questo gioco, chiamiamolo così, o questo fenomeno social. Intanto la tematica che si pongono tutti i genitori è: che fare? La domanda che si pongono tutti i genitori: ci sono dei segnali per capire se un ragazzo o una ragazza è imbrigliato in qualche forma di dipendenza di questo tipo? Ma io direi che il segnale sicuramente quando c'è l'eccessivo tempo, l'eccessiva preoccupazione legata al telefono, a qualche messaggio che si riceve, a qualche cosa che in qualche modo può transitare dal telefono, ecco. È molto difficile però per il genitore, se rimane in una posizione esterna, accorgersi di tutto questo. Diciamo che è necessario, soprattutto con i ragazzini più piccoli, essere un po' più informati su cosa accade, cosa transita dal telefono del ragazzo. Questo direi imprescindibile, perché dall'esterno anche il dire passa tanto tempo al telefono vuol dire tutto e niente. Sì, esatto. Sappiamo bene che dipende uno fanno tante cose. Sì, certo. C'è da dire che c'è questo messaggio lasciato da questo ragazzino di 11 anni, cioè: mamma, papà, vi amo, ora devo seguire l'uomo col cappuccio nero, non ho più tempo, perdonatemi. Con questo messaggio è chiaro che gli investigatori dicono: adesso guardiamo il cellulare, perché l'uomo col cappuccio nero, qualcuno ha pensato proprio a questo Jonathan Galindo, questo sì. Come lo dobbiamo chiamare, questa persecuzione social, questa moda social? Sicuramente dobbiamo, secondo me, uscire un po' dal dibattito, che io trovo un po' sterile, no? Se questo Jonathan Galindo è vero, non è vero, no, se il gioco esiste, non esiste, no? Perché poi si rischia di focalizzarsi su quello. Diciamo che esiste nel momento in cui entra nei cellulari dei ragazzini, poi chi ci sia dietro e cosa c'è dietro non lo sappiamo, però esiste in qualche modo, è così, qualcosa concreto. Assolutamente esiste, nel senso che poi con i fenomeni di emulazione, con lo scherzo, col gioco, che molti ragazzi, più se ne parla in qualche modo, ma poi neanche ne parliamo noi, ne parlano tra di loro, no? I canali YouTube, gli YouTuber, anche solo per scherzare, per ridere, fanno accenno a questi giochi. È molto inquietante anche questo messaggio, nonostante appunto ci sia il condizionale, ci siano molte cose ancora da capire, ci mancherebbe altro. Sicuramente questo tipo di situazioni ci fanno dire una volta di più che la rete è un territorio per niente neutrale, è un territorio in cui ci sono delle relazioni, no, che avvengono, delle dinamiche molto complicate, molto complesse, e dentro cui è molto difficile districarsi, soprattutto da più piccoli, perché rimanere imbrigliati, fosse anche dentro uno scherzo di cattivo gusto di qualcuno, perché noi insomma possiamo pensare che dietro questi personaggi ci sia la mente di un criminale che in qualche modo vuole fare fuori i ragazzini, ma molto più facile che ci sia dietro un gioco, uno scherzo, un qualche cosa di cui non c'è la percezione della gravità, che finisce nelle mani di un ragazzino che in qualche modo si lascia un po' trasportare, perché magari in un momento più suo di ricerca personale, perché tutti i suoi compagni di classe ne parlano e quindi anche lui vuole in qualche modo fare il grande, anche lui partecipare a tutto questo, e poi si trova dentro questa dinamica di cui sappiamo poco, in cui però secondo me subentra da un lato la paura di non fare magari certe cose che vengono dette, dall'altra la vergogna, che poi è una delle cause che spinge, ahimè, a volte in adolescenza al suicidio, no? La vergogna di parlarne a casa, di parlarne con i genitori, la vergogna di in qualche modo essere finiti in una situazione che non diciamo prevede o che in cui si fa fatica a vedere il futuro, no? E quindi a volte, ahimè, anche queste situazioni molto, sì, molto tragiche. Devo dire, il capo della Polizia Postale oggi, Nunzia Ciardi, intervistato al Corriere della Sera, non parla del caso specifico, ma parla in generale e dice una cosa molto interessante, visto che io per altri motivi, anche scherzando sulla app Immuni, ho detto sono un po' un ignorante dal punto di vista tecnologico, e anche Leonardo mi sembra ti possa accomunare in questa categoria non certo degli hacker professionali. Però dice Nunzia Ciardi, basta ai genitori che abdicano a parlare col figlio di quello che succede col cellulare, perché dicono: ma io non capisco, non sono all'altezza dal punto di vista tecnologico. Dice: è una questione di dialogo, cioè anche solo dire cosa stai guardando, mi spieghi che gioco è, cioè farsi coinvolgere, anche se uno è un cagnaccio dal punto di vista tecnologico, no? Assolutamente, è faticosissima questa cosa, perché il telefono nella mano dei ragazzi e non è lì 24 ore su 24, ma quasi, e quindi diventa molto difficile poter parlare di ciò che capita su queste piattaforme. Però se il punto di partenza è quello di dirsi che quello è, cioè che lo smartphone in mano, o comunque la rete, internet in mano a un ragazzo è qualcosa di pericoloso, perché io penso che anche aver paura di dirlo. Anche certo, anche, non solo, ma anche, ci mancherebbe altro. Però quell'anche deve un po' assolutamente farci fare quella fatica, no? Che non significa appunto dover installare programmi particolari nel telefono dei ragazzi o dover monitorarli in chissà quale modo, però effettivamente un po' capire, no? I social network a 11 anni sono un terreno molto spinoso, anche pericoloso, e lì bisogna in qualche modo esserci. In teoria, in teoria anche è vietato, ma sappiamo, dai, non siamo ipocriti, cioè voglio dire, è vietato ma basta mettere una data di nascita, è inutile girarci intorno. Però esistono programmi che possono preservare, sì, ma anche da questo tipo di giochi. Da questo tipo di giochi non credo. No, perché sono su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, certo. Cioè quelli social che se uno ha ti compaiono. No, ma infatti però... io dico questo, cioè senza giudicare, però cari genitori, io l'ho fatto per esempio l'altra volta quando ho scoperto di questo fenomeno. Parlate ai vostri figli tranquillamente a cena, dire: scusate, Giorgino, Antonella, Filippo, ma tu hai mai sentito parlare di questo Jonathan Galindo? No, non rischi di sortire, di avere l'effetto contrario, che poi lui va a vedere chi è questo Jonathan Galindo e poi... Ne parli. Sì, ma si sa... Ne parli, sì. No? Rossetti, che dice? No, per fare un passaggio ancora, diciamo... indietro ancora di più, no? Cioè nel far ragionare il figlio, nel dire ai figli, no? L'importanza di non avere contatti sconosciuti sui social network. Questo quando sì. Sei più piccolini, perché comunque anche questi personaggi così misteriosi, no? tra il mito e la realtà ne sappiamo poco, non dovrebbero proprio in qualche modo arrivarci, no? È chiaro che la curiosità poi di un ragazzo spinge a dire sì, mi collego, però il punto no, è perché non il ragazzo avere... dice, la ragazza dice non certo, rispetto tutto, però poi è incuriosito da un'immagine, non è come dire malizioso il fatto che poi aderisca a una richiesta se viene incuriosito, no? Non c'è malizia in questo, certo. Fa parte della normale crescita. E poi ripeto, se un ragazzo accede o accetta questa amicizia è perché il suo giro di amici ne parla, appunto. Perché YouTube ne parla, TikTok ne parla, e quindi la curiosità cresce. Spesso se ne parla non in termini così negativi, no? Ma in termini anche un po' di scherzo, di gioco. Davvero YouTube è pieno anche di, adesso non su Jonathan Galindo, non lo so, ma al tempo di altri giochi di questo tipo tanti scherzavano, no? su queste cose. E il problema è che se io adulto capisco che lì c'è uno scherzo, che quella cosa non è successa davvero, un ragazzino invece questa cosa non capisce più di tanto, quindi viene attratto e rischia effettivamente di trovarsi in una situazione molto delicata. Sì, sì. La rete è veramente un territorio spinoso, dobbiamo stare molto attenti, questa dimensione delle dinamiche relazionali, no? Che avvengono, un territorio vivo dove avvengono dei fatti, avvengono delle cose, questo dobbiamo mettercelo in testa, soprattutto con i più piccolini, non possiamo lasciarli a pascolare da soli in questa rete di social network, youtuber, contenuti che continuamente loro ingurgitano senza di fatto un pensiero, no, di quello che stanno vedendo. Sì. Qua dobbiamo essere più presenti assolutamente come genitori, dobbiamo introdurre dei limiti maggiori, penso, no, come adulti. Sì, di fatto, per i più piccoli. Di fatto un controllo, io dico sempre, e sono il primo a essere un po' preso dalle mille cose da fare nella vita, faccio fatica sempre a stare lì a controllare, a vedere cosa fa. Non so, tu da poco credo tuo figlio Leonardo abbia il cellulare. Da giugno. Cosa fai? Controlli? Sì, cerco di controllare, cerco di vedere cosa guarda. Il problema è che poi diventa una discussione continua. Lo so. E quello sì, però l'alternativa è dire fai quello che vuoi, e secondo me non è. Cioè, sì, ti dà un'apparente tranquillità. Ma forse nel lungo periodo. Poi anche mio figlio mi dice: ma cosa stai tutto il giorno sul telefono? Cosa guardi? Ha ragione anche lui. Sì, è lui. Infatti, effettivamente è Beniamino che dovrebbe controllare te e non il contrario. Comunque, poi dell'inchiesta non abbiamo parlato e non lo sappiamo. Se c'è dietro questa vicenda tragica qualcuno che ha spinto, addirittura fisicamente ha spinto a questo gesto il ragazzo di 11 anni, spero che venga trovato e venga perseguito per istigazione al suicidio, ma questo lasciamolo, come dire, agli inquirenti. Intanto noi ringraziamo Alberto Rossetti, grazie, psicologo, psicoterapeuta, esperto in dipendenze giovanili sulle nuove tecnologie, scrive anche diversi libri, lo trovate, autore di diversi libri su questo. Andiamo al traffico. Oggi che Manera è qui, penso tutto regolare, soprattutto sulle tangenziali di Milano. A Cologno il traffico sfila via come l'olio proprio. Questo mai, a Cologno non c'è mai mancanza di traffico. Ma dai, su. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... 1. Nessuno. 100 Milan. Bisogna scommettere sulla digitalizzazione del paese. Per questo consigliamo al senatore di comprarsi un nuovo telefonino. Ne vale la pena. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So, gli antichi testi dicono che se Manera si presenterà in studio per 3 giorni consecutivi, Cthulhu si sveglierà dalle profondità della terra e distruggerà l'umanità. One day is fine and next is black. So if you want me off your back. Ragazzi, poi con i Clash. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Ha vinto DJ Lukett. Niente, ha vinto da sfida Luca. Forse ha trovato finalmente un lavoro, perché ricordiamo la tecnica Luchetti che tu hai teorizzato e ben spiegato in passato, caro Leonardo. Qual è la tecnica Luchetti? Si tratta di girare per gli uffici, per l'ufficio, fingendosi molto indaffarata, sbuffando, tenendo in mano dei fogli come se si avesse molto da fare, spostandosi i capelli da una parte e dall'altra. Lascia stare, guarda. Ed è il modo migliore per evitare di lavorare, per non fare niente. Però infatti, forse offesa da questo si è trasformata in DJ Lukett e ci sta, come dire. Senti. E niente, ha preso in mano, ha preso possesso della parte musicale della trasmissione. Niente. È severissima, se entri un secondo prima del dovuto probabilmente mi avrà già cazziato 5 volte. È stanca di questa radio, vuole andare in una radio musicale probabilmente. L'ha detto anche più volte: sono stanca di Radio 24, voglio cambiare radio, voglio andare a Radio Birichina, Radio Bella e Monella. Queste sono menzogne. Allora vai Leo. Allora, questi giorni... Senti, o i Clash o questa base. Questa base che sentiamo da 4 anni. Questi giorni ho visto che si parla molto sui social della copertina che Vanity Fair ha dedicato a Vanessa Incontrada senza veli, dove lei, nuda appunto, non ha problemi a mostrarsi così, anche se probabilmente non risponde ai criteri estetici dominanti, per qualche chilo in più che lei pensa di avere e in qualche modo lo rivendica. Ora, per le donne che pensassero ancora che agli uomini piacciono le donne magrissime, senza ciccia da nessuna parte, anche un po' spigolose, beh, vi assicuro che non è così. Agli uomini piace molto avere un po' di carne alla quale abbandonarsi. Chi se ne frega se c'è mezzo chilo, un chilo, 5 chili, 10 chili in più. Per gli uomini non è mai stato un problema. Credo che sia più un problema che sentono le donne che vorrebbero riconoscersi in quei canoni estetici dettati da qualche stilista che voleva risparmiare un po' di tessuto per qualche vestito. Probabilmente quello stilista avrà pensato: se faccio sfilare donne normali consumo troppa stoffa. E così sulle passerelle hanno cominciato a sfilare solo donne di una magrezza eccessiva, anche se ora fortunatamente la situazione sta lentamente cambiando. Ma in fondo siete voi donne che volete aderire a quei canoni di bellezza e non certo noi uomini comuni che ve li abbiamo dettati. E allora, se una donna, sempre in nome di un politicamente corretto che comincia ormai a diventare stucchevole, se una donna ha qualche chilo in più, non si può dire che è un po' abbondante, lo ripeto, chi se ne frega se ha qualche chilo in più. No, bisogna dire che è curvy. Di un uomo si può dire che è un pancione, un panzone, un ciccio bomba, un tracagnotto. Invece della donna bisogna dire che è curvy. Se le donne vogliono veramente liberarsi di quei complessi che non ha ragion d'essere, devono smettere di dire che sono curvi. È come noi uomini dire di essere abbondanti, formose, perfino grassottelle, senza che ci sia niente di male. Invece se continuate a dire di essere curvi, significa che siete ancora prigionieri di quello stereotipo. E poi, davvero avere qualche chilo in più per una donna può rappresentare un problema? Davvero nel XXI secolo mostrarsi nuda con qualche chilo in più può essere visto come un atto rivoluzionario e di grande coraggio? Personalmente, quando incontro una donna con la quale immagino di fidanzarmi, la prima cosa che faccio non è cercare una bilancia per vedere quanto pesa. Guardo se mi ispira erotismo, che non dipende dai chili. Immagino come potrebbe essere avere una relazione con lei, ma rispetto ai chili, chi se ne frega? Invece no, nel 2020, in anni in cui abbiamo una serie di casini a non finire, siamo ancora lì a guardare quanto si sposta l'ago della bilancia quando ci sale una donna. E ripeto, secondo me agli uomini di quell'ago della bilancia interessa poco, niente. Rivendicare qualche chilo in più, secondo me, è perfino anacronistico, è inutile. Chi fa body shaming, come dicono quelli bravi, è un cretino che non va considerato. Gli altri a quelle cose non badano più, non c'è neanche bisogno di rivendicarlo. Possiamo essere grassi, grassottelli, panzoni, pancioni, ciccio bomba, uomini e donne, ma non c'è bisogno di dire curvi e di rivendicare qualche chilo in più come se fosse la rivoluzione. Altrimenti significa che hanno ancora ragione quei pochi stilisti che vogliono risparmiare stoffa. Bravo Leo! Da parte mia, sono sicuro da parte di Mattia Feltri, che oggi scrive di questo tema in prima pagina della stampa e dice proprio questo, in altre parole, con altre parole, cioè che non sono più le donne, agli uomini non, gli uomini non guardano il chilo in più, i 2 chili in più, sono soprattutto le donne loro stesse e le loro amiche, cioè più sì. Una... Posso dire che è una cosa vecchia, è una cosa vecchia, basta, sta storia qui non sa... basta, gli uomini sono grassi e va bene, anche le donne possono essere grasse senza dire curvi, senza dire ma no, chi se ne frega. Va bene, mamma tanti mia. Uomini infatti scrivono, bravo Leonardo, poi le donne non vogliono capire, gli uomini vogliono la donna con i fianchi, vabbè, adesso insomma si è scatenato il dibattito, attenzione, noi chiudiamo con i Clash, la prima ora con Shuna Stereo Shunogo, iniziata con Bob Marley, signori, adesso i Clash e poi Peter Tosh, in arte Peter Tosh, perché si chiamava Pinkett McIntosh. Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. 1, nessuno, 100 Milan. Manera, stai a casa che quest'anno ci manca solo Cthulhu e siamo a posto. A proposito di Vanessa, a Milano Sedis, in Figa Vegan. Vabbè. Alle 19 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, DJ Luca ci propone i Cranberries. Vabbè, oh, ragazzi, sempre di grande livello, Siamo qui, caro Leonardo Manera, hai sentito come ti vogliono bene i nostri ascoltatori? In realtà i messaggi sono quasi tutti per te. Io non li vedo i messaggi, li vedi solo tu, no, perché io non ho accesso. Audio, i messaggi audio. Sono un po' insulti, ma lentamente il germe Manera sta portando dalla sua parte. Non credo, questo non credo. Perché? Allora, oggi siamo in questa radio 24, Radio Rusticino, e oggi... Consiglio a tutti di andare sui trabocchi. A Beronzi, a me pensavo a Beronzi superiore. Sui trabocchi di fronte al mare di Lanciano. Ah, ma è il signor Vagone per caso? Okay. Francesco Vagone della Vagone Tour International. Oggi non vi consiglio Beronzi, ma vi consiglio i trabocchi di fronte a Lanciano e mangiare pesce fresco, pesce succede sul gelato, sì. Pesce di ogni tipo, spigole, orate, trote, carroni. Va bene. Siamo qui. Assaggi anche tu i carroni che puoi pescare. Adesso fa finta di fermarsi appena parlo. Oggi parlo tutto in questo modo, anche se abbiamo ospiti importanti, storie molto intense. Siamo il Presidente della Repubblica Mattarella. Buongiorno, Presidente. La invito a Beronzi, superiore, a fare una cita. Dai, le 10:11 minuti, adesso vogliamo raccontare questa storia di scuola, che è una storia però un po' kafkiana e paradossale. Saluto Maria Gagliardi, buongiorno signora, eccoci qui. Buongiorno. Voi siete di famiglia di Motta Visconti. Motta Visconti, esattamente. Che credo sia in provincia di Milano, ma è più vicina a Pavia. Come provincia, esatto. cosa fa? Milano. E Motta che è provincia di Milano e Visconti che è Pavia. Erano due comuni separati in origine. Probabilmente sì. Allora, lei è finita sui giornali perché la storia paradossale di suo figlio, sì. Che deve, udite, svegliarsi alle 5, prendere 2 linee di metro, 26 fermate, un autobus per andare a scuola. Questa ha 16 anni. A parte che lo devo accompagnare io alla metropolitana da Motta Visconti a Piazza Bellegrasso. Per andare a Sesto San Giovanni. Esatto. Com'è possibile che da Motta Visconti debba finire a Sesto San Giovanni suo figlio? Allora, in pratica le scuole nelle vicinanze di Motta Visconti, che sono diciamo le più vicine, sono a Pavia, sì. E non ci sono posti, mi hanno detto che non ci sono posti, e anche quelle di Milano. Cosa frequenta suo figlio? Istituto? Dovrebbe frequenta adesso il terzo anno di informatica e telecomunicazioni. Cioè non ci sono posti? No, allora praticamente mio figlio il primo anno che ha fatto nell'anno 2018-2019 era stato respinto, bocciato. Sì. per cui vedendo un po' la sua diciamo il suo disagio, andando di nuovo in quella scuola con gli amici suoi che non li vedeva, li vedeva che erano già in seconda eccetera, comunque vedendo il suo disagio l'abbiamo gli abbiamo fatto recuperare 2 anni in uno, per cui lui è uscito da una scuola privata dove io ho speso 7.000 euro facendo un grandissimo sacrificio e per permetterlo, diciamo così, alla pari, no? Andare di nuovo nella stessa scuola con gli stessi amici. A gennaio avevo fatto la richiesta di iscrizione perché poi per la stessa scuola? Per la stessa scuola mi avevano detto che bisognava avere l'idoneità prima, quindi per via del Covid è stata rimandata l'esame, però a luglio lui aveva l'idoneità, che io ho chiamato la scuola e mi hanno detto guardi signora non c'è posto. Allora mi quindi sono informata. Il Covid c'entra alla fine di Riffoli Affa, c'entra sempre anche in questa storia? Vabbè, c'entra relativamente perché se lei fa caso in varie scuole ci sono, a proposito di questo, proprio stamattina una mia amica mi ha detto guarda mio figlio va nella stessa scuola che andava tuo figlio e sono 13 alunni in una classe e si alternano, un giorno lo fanno a casa e un giorno lo fanno in presenza. Sì. E quindi esatto. Lei ha sospetto che non vogliano suo figlio? Ma non penso che sia questo, a meno che non è perché lui viene da un istituto privato e fanno, diciamo così, una sorta di discriminazione. Vabbè, questo però non lo possiamo, non ci non sono, lo possiamo dire, non credo, non perché poi non dire. Conoscendo, cioè, non è che tutti sanno che mio figlio Vincenzo è questo ragazzo qua, cioè io chiamo le scuole mi dicono che non c'è posto, ho mandato mail, mi dicono che non c'è posto. Ecco, quindi, ma non c'è posto, perché succede nelle scuole, non c'è posto. Secondo sì, lei è legato anche di più all'emergenza Covid, cioè a dire gli istituti già con queste situazioni di carenza di posti, figurarsi adesso che bisogna mantenere il distanziamento di almeno 1 metro, eccetera, tendono a non prendere studenti perché sennò si sovraffollano le classi e poi dopo. Ok, c'è. Va bene, d'accordo. È una domanda che le faccio, lei, cioè però, le hanno detto anche questo? No, mi hanno detto semplicemente che le classi sono piene, però io dico un ragazzo non può fare la differenza perché se in un'emergenza del genere comunque vi siete adoperati a mandare una classe di 28 ragazzi, dividerla a metà, un giorno lo fanno online e un giorno lo fanno in presenza, io penso che un posto potrebbe anche uscire. Cioè, non mi dite che non è possibile. Sì, lei dice anche perché la soluzione alla fine è che ha trovato una scuola a Sesto San Giovanni da Motta Visconti. Voglio dire. Prende la sveglia alle 5? Si sveglia all'orario in cui mi svegliavo io quando facevo la trasmissione? Al momento, io mio figlio la mattina non lo vedo, non posso salutarlo, non gli posso dire buona giornata, non fa colazione con me. Perché diciamo abbreviare un po' il tragitto, sta a casa di amici nostri che lo trattano come un figlio, gli vogliono bene per l'amor di Dio, però comunque sta a casa loro per arrivare diciamo in tempo a scuola, per cioè, fare meno tragitto, perché altrimenti Sesto, sarebbe… Sta a Sesto, sta vicino a scuola? No, è a Milano. Ah, ok. Zona Arco della Pace, vabbè, quindi prende una sola metropolitana. Okay, va a Sesto e prende il pullman, basta. Quindi però, ogni giorno va all'arco dove va a Milano, insomma, va a Milano da questi da Milano, sì, sì. Sta proprio lì. Si è trasferito. E purtroppo io non, cioè, a parte il fatto che è una cosa che è momentanea, io spero, perché non credo, un ragazzo di 16 anni che già non vive a casa sua mi sembra un po' è una situazione, per carità, noi abbiamo raccontato questa storia, signora Maria, è chiaro che è una storia limite, io non so quanti adesso lei ci ha detto che c'è questa soluzione ponte per cui sta a Milano da amici, per cui non si deve svegliare in questo momento alle 5 a Motta Visconti per, come dire, farsi 30-40 chilometri con vari mezzi di superficie, metro per arrivare a Sesto San Giovanni. Però idealmente vivendo a casa questa sarebbe la condizione in cui dovrebbe vivere. Altro che Leonardo, il tuo portare a Brugherio il figlio e rimanere imbottigliato a Cologno Monzese. Io quando ero ragazzo il liceo scientifico l'ho scelto come scuola perché era la più vicina a casa mia. Era veramente a 3 minuti. Ho fatto una scelta sulla base della comodità. Qual è la più vicina? Stupenda. Sì, sì. E poi dopo vieni qui a dire che noi ti critichiamo per il fatto che non vuoi lavorare. Non è che ho scelto in base alle attitudini. C'era il liceo classico che era ad Desenzano, invece lo scientifico era proprio sotto casa mia. Una bella discesa facevo, ero lì comodo. E quindi arrivavi in ritardo, secondo il principio per cui chi abita più vicino a scuola arriva più tardi. Quindi il mio consiglio è questo: scegliete non in base alle attitudini dei vostri figli, ma in base alla comodità. Così avrebbe voluto anche Maria, forse, per il suo figlio Vincenzo. Comunque la ringraziamo per questa storia un po' paradossale che è finita sui giornali, che abbiamo voluto raccontare anche noi. A proposito di storia paradossale, dopo il traffico ne raccontiamo una che riguarda questo imprenditore finito sui giornali, perché è imprenditore italiano che ha fatto un viaggio particolare, tra poco. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta 1 Nessuno 100 Milan. Dove si trova questo bar Jimmy dove va sempre Manera? Forse l'unico ascoltatore al mondo che ancora non sa dove si trova il bar Jimmy. È in via Carnia, zona a metà strada tra Piazza Udine e via Palmanova. Si vede perché è quello che non ha l'insegna, si vedono i neon sotto quella che dovrebbe essere l'insegna, che invece non c'è. Stupenda. La tecnica di Jimmy è meravigliosa. Per farmi notare non metto l'insegna, quindi l'unico senza insegna della via è quello. No, senti un po', raccontavo di questa storia che è finita sui giornali di questo imprenditore Roberto Rivellino, che è andato in Tunisia per una ditta di abbigliamento, ha avuto qualche problema, non è andata benissimo evidentemente, aveva dei debiti col fisco e allora ha detto: come faccio a uscire dalla Tunisia? Qua mi blindano se arrivo alla dogana, poi se chiedo di rientrare in Italia magari con il Covid c'è qualche problema. E allora, come nel film Tolo Tolo, l'ultimo di Checco Zalone, ha deciso di imbarcarsi su un barcone per migranti. È arrivato a Lampedusa, come quando sono sbarcati a Lampedusa dei diversi stranieri, fa: lei è? Io sono Roberto Rivellino di un paesino, dunque, di Santa Maria del Molise, 627 abitanti, in provincia di Isernia. Cosa ci fa qui? Non sapevo come uscire dalla Tunisia, avevo dei problemi col fisco e ho trovato questo modo. E noi ce l'abbiamo ospite oggi? Lo vorrei assolutamente, signor Roberto Rivellino, che ora sta facendo la quarantena ovviamente nel suo paesino in Molise, è negativo, gli hanno fatto il tampone eccetera, vorrei però averlo per capire come è stata questa cosa. Beh, è incredibile, un'avventura incredibile. Ora però, forse sentite in sottofondo, credo, noi siamo collegati con la Colombia. Quindi hai lanciato questa storia che è finita qui però. È finita qui, ho detto, faccio l'appello alla redazione. Io mi aspettavo un ospite. Io domani vorrei avere Roberto Rivellino in ondina. No, adesso abbiamo un altro ospite. Sì, mi aspettavo questa storia. Ma no, hai lanciato in gran pompa magna, invece no. Prima ho detto c'era un viaggio particolare. Per la serie Le storie interrotte di Alessandro Milan. Cioè, adesso dopo il traffico mi si aspetta 10 minuti. Alessandro Milan, le storie interrotte. L'ho raccontata, sì, magari sì. Domani la racconteremo. Ma io mi aspettavo uno sviluppo, invece è morta lì. Vabbè. Chi c'è adesso? Questo c'è veramente questa storia che sta. Certo, un nostro grande ascoltatore che ci ascolta dalla Colombia, per questo l'abbiamo sbrandato a, penso, prima mattina, notte, non so. Rocco Corvino, buongiorno. Buonanotte. Ciao. Che ore sono? Ciao a tutti, buongiorno. Che ore sono? 3:30 della notte, più o meno. Ma allora ti teniamo qui al telefono a lungo, così ormai ti abbiamo interrotto nell'ora più profonda del sonno. Ma ormai dopo 5 mesi di quarantena ho perso tutte le nozioni dello spazio e del tempo. 5 mesi di quarantena, no, perché Rocco Corvino, nostro ascoltatore dalla Colombia, questo per dire che ci ascoltano in tutto il mondo con le app di Radio 24, i podcast, ci ha mandato una mail molto accurata che vorrei spiegassi per gli ascoltatori, su una sorta di discriminazione che dice che c'è nei confronti di chi vive in alcuni paesi rispetto ad altri, cioè Rocco? Sì, allora praticamente nel famoso decreto di inizio agosto l'Italia aveva fatto alcune norme sull'ingresso nel paese. E stilando una classifica, una sorta di varie categorie a seconda del paese di provenienza, e in fondo c'è una categoria chiamata paesi in categoria F, tra cui c'è la Colombia, c'è Panama, c'è Armenia, Repubblica, insomma vari paesi. F come paesi. Firenze, chissà cosa vuol dire questa F? F come Firenze, cioè, semplicemente è una lettera dell'alfabeto. Sì, perché ABCD ABCD e F. Esatto. E praticamente cosa dice il decreto? Che che le persone provenienti da questi paesi o che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni in questi paesi non possono per nessuna ragione entrare in Italia, con esclusione di cittadini italiani residenti in Italia. Il problema però è per i cittadini italiani residenti all'estero, o cioè iscritti all'AIRE, chi come me lavora fuori Italia per più di 180 giorni l'anno e deve obbligatoriamente iscriversi all'AIRE. Sì. Quindi ci troviamo in l'Associazione Italiana Residenti all'estero. E questo decreto, quindi, fatto così, si porta dietro una serie di incoerenze che purtroppo il nostro Rocco dice: io che sono qua in Colombia iscritto all'AIRE, quindi non sono un cittadino residente in Italia, ma sono residente qui di fatto in Colombia in questo registro AIRE, non posso tornare in Italia, cioè per nessun motivo, neanche facendosi la quarantena. Per nessun motivo. Situazione paradossale è che io, per ritornare in Italia, dovrei andare in un altro paese che non sia in lista F, quindi per esempio Francia, anche anche Stati Uniti, anche India, dove comodo, sono 80.000 casi al giorno. Comodo, da Colombia New Delhi, poi devi stare quanto? 14 giorni almeno? 14 giorni e poi entrare in Italia. Quindi mi trovo in una situazione in cui paradossalmente io, cittadino italiano, sono accettato dalla Francia e non dall'Italia. Infatti c'è scritto nella mail figli di un dio minore. Sì, perché tra l'altro sarebbe curioso anche capire come hanno fatto credo in base ai contagi. Tu però ci hai fatto per esempio notare che come statistiche gli Stati Uniti sono messi peggio della Colombia. Sì, molto peggio, per dire, nella lista c'è anche Panama ha 500 casi al giorno, l'India ce ne ha 80.000, quindi bisogna rapportare alla popolazione, quant'è la popolazione di Panama. Sì, però resta comunque una follia questa situazione, ma tu hai provato a contattare il consolato italiano? Ma c'è il decreto. Io ho scritto anche, ho scritto varie mail al ministero, che non so se probabilmente non l'abbia letto. Sono stato in consolato all'ambasciata, però è la legge questa qui, che poi tra l'altro probabilmente ci sono anche persone che sono riuscite ad entrare, però se c'è una cosa è ciò che dice la legge, come al solito Rocco ci dici che c'è l'italiano che è il furbetto che ce la fa, però non è che si può sempre dare la soluzione del trova l'amico dell'amico che ti dice che non sei iscritto all'AIRE, che ti fa entrare. Questo decreto è di agosto, quindi poi sarà stato convertito in legge necessariamente. È di agosto, è stato rinnovato a settembre e per ora fino al 7 ottobre, speriamo che dal 7 ottobre in poi si rendono poi non lo rinnovi. Sì, perché magari... Rocco forse vuole tornare per Natale, punta a Natale, almeno esatto, il Natale in famiglia, così, almeno. È proprio Natale. Comunque, che dobbiamo dire, Rocco? Cioè, tienici informato, anche noi cercheremo di capire. La legge è chiara ed è questa, cioè, la legge impedisce a coloro che sono iscritti all'AIRE, sì, ho fatto un errore, Anagrafe Italiani Residenti All'Estero, non un'associazione, ovviamente Anagrafe Italiani Residenti All'Estero, ringrazio Patrizia che ce l'ha segnalato, impedisce a chi in alcuni paesi è in questa lista F, c'è la Colombia, poi c'è il Panama, poi altri. Che hai detto questi paesi? C'è la Repubblica Dominicana, c'è il Cile, poi ci sono il Santo Domingo, il Cile. Cioè, da quei paesi, se uno è residente lì iscritto all'AIRE, non può tornare per nessun motivo direttamente in Italia. Deve andare, che ne so, sì, deve avere un appoggio in qualche altro paese, arrivare in qualche altro paese, stare 14 giorni, dimostrare di non avere problemi. Magari, ma deve fare anche il tampone in questi 14 giorni? La cosa, in teoria no, la cosa assurda è che non è previsto il tampone. Per esempio la legge francese dice potete venire, anche in Francia hanno fatto una serie di una lista del genere, però hanno detto venite, fate il test, andate in quarantena e poi dipende dal risultato siete liberi o no. In Italia invece no, in Italia non prevedono il test, prevedono solo che non si può entrare, bisogna solo aspettare 14 giorni in un altro paese, sia la Francia sia la Spagna. Bene, Rocco, aggiornaci, prova a cercare di dormire. Di solito quando uno ti sveglia alle 3:30, adesso ti addormenterai attorno alle 6. Ma tu hai delle necessità effettive per le quali tornare, posto che tutto sembra una grande follia. Ma tu vuoi tornare per trovare i parenti oppure perché lavori qui? No, principalmente la famiglia, perché mi è nato un nipote, quindi vorrei abbracciarlo per Natale più che altro. Ecco, abbracciarlo a distanza. Organizzati per vederlo a distanza, organizzati con Skype, ti do questo consiglio. Eccolo là, il buon Manera, come al solito, rinuncia. No, invece Rocco Corvino non rinuncerai, anzi scrivici e tienici aggiornati. Anzi, cari ascoltatori, se c'è qualcun altro nella situazione di Rocco Corvino che ci ascolta dai paesi citati, lettera F, che non riesce a rientrare in Italia, ci mandi una mail, 100milan@radio24.it, poi certo incoccerà anche in alcuni commenti, come quello del nostro ascoltatore, che cosa vuole questo qui? C'è la legge, non rompa i... Bravo. Questo smargiasso, chi è? Come si chiama questo smargiasso? Ecco. Chi è? Dimmi il nome. Non nome firma. Di battesimo. Non si firma. Cosa deve dire? Se non mette il nome di battesimo. Ah, no, un so, ulteriore, Antonio, non so, un ulteriore elemento Mauro qualificante. Meazza, forse che è Mauro Meazza. Mauro Meazza l'ho visto col solito tirapugni prima. No, nel senso adesso, caro ascoltatore, però insomma, cioè, c'è la legge, non rompa. Ma voglio dire, ma empatia questa sconosciuta, ma si metta nei panni di una persona che non credo che, a meno che non dobbiamo fare una colpa del vivere in Colombia, forse deve essere diventare anche una colpa in questo paese vivere in Colombia e lavorare in Colombia. Se fosse lei in Colombia in questa situazione con il nostro Rocco, cioè non direbbe vorrei tornare in Italia, non direbbe scusate perché io posso tornare in Francia e in Italia no, o perché posso tornare in Italia ma passando 14 giorni dalla Francia, cioè non sembra c'è la legge, non rompa le balle. C'è la legge. Sì. Tutti a rispettare la legge in Italia, siamo un paese notorio da questo punto di vista. Va bene. Guarda qua, appunto, Mauro Meazza, lo smargiasso, quello che fa 5 gol al Benevento e si presenta così. Bravi, è l'anno dell'Inter, bravi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. Milan, Comunistello, l'AIRE, l'anagrafe italiana residenti all'estero, non l'associazione. Ma non è che a sto mondo ci sono sempre associazioni, Rocco, resta in Colombia, va là che è meglio che tornare in Italia, ma che te frega. Ciao. haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. Sentite che puntigliosetti i nostri ascoltatori. Sai che ho dimenticato oggi che devo fare un appello in radio. Avevo dimenticato ieri, mi è venuto in mente adesso. Sono le 10:38 minuti. L'appello di Leonardo. Ho bisogno di una collaboratrice domestica a casa. Ma la paghi? Sì, la pago, certo. Regolare. Che la pago poco, ecco, ma la pago. Ecco. Allora, se qualcuno degli ascoltatori ha un consiglio da darmi, qualche persona che lavora già per voi, qualche collaboratrice che vuole proporsi, io abito in zona Piazza Udine, avrei bisogno di un paio di volte alla settimana. Ecco, quindi una persona fidata che sappia stirare possibilmente. Vabbè, ma adesso non entrare nel lavoro della che sappia fare la collaboratrice domestica, subito già rompiscatole che no. Sappia stirare. Allora, cioè, a me piacciono, perché io non sono capace, le persone che stirano mettendo sopra i vestiti un panno, sì, perché viene più morbido, viene più bello. E solo una volta ho visto una persona che faceva così, sono rimasto molto colpito. Quindi, se fra di voi all'ascolto c'è qualcuno che stira in questo modo, che vuole venire un paio di volte alla settimana in zona Piazza Udine, ecco, mandate i messaggi all'amministratore delegato del gruppo. No, se volete mandate messaggi a 100.000. Ma no, mandiamolo all'amministratore. Ma perché dobbiamo mandarlo all'amministratore delegato del gruppo? Vorrei propormi come pensa che riceve il dottor Cerbone, inizia a ricevere mail. Vorrei fare la collaboratrice domestica. Ecco, allora fate così, scrivete al dottor Cerbone che siete disponibili eventualmente. Subito, attenzione. Sì. DJ Lucet interviene subito un po' a gamba tesa, è un po' fallo questo subito, eh? È un po' fallo. Collaboratrice o collaboratore domestico? No, non è, ma questo lo penserà lei, io voglio una collaboratrice, son libero di decidere se preferisco una collaboratrice o un collaboratore. Sì, di questi tempi però attenzione, eh? No. Perché le donne, perché escludi il collaboratore domestico? Allora, perché avere una governante in casa mi fa più sentire coccolato, ecco. Posso dirla questa cosa? Sì, oh. Puoi dirla. Nel senso che sia sessismo, visto il sessismo della signora Lucchetti o chi per lei. Non è tutto sessismo. Lucchetti, la signora Lucchetti. Ecco, signora Lucchetti, non è tutto sessismo. E io cerco una governante, una collaboratrice domestica che coccoli i miei vestiti e possibilmente anche... Sì, coccoli i miei vestiti e possibilmente anche la mia casa, stavo dicendo. Casa, no. ecco, non quello che già stavi insinuando. No, tu sì, stavi già insinuando. Vabbè, c'è Andrea da Frosinone. Buongiorno, Andrea. Buongiorno, Alessandro. Buongiorno, Leonardo. Sì, eccoci. Ciao. Senti, io volevo intervenire in merito al controllo del cellulare dei figli. Sì. Ma questo è un problema che abbiamo avuto e comunque monitoriamo. Io ho una figlia di 16 anni e una di 12, e abbiamo individuato diverse app che ci aiutano in questo senso. In particolare ne usiamo una che si chiama Family Link, ma ce ne sono diverse. Sì, sì. Anch'io l'avevo messa. Lei è andato al Viva Voce, credo, o alla radio accesa. Dovrebbe spegnere la radio, Andrea. No, rimanga con noi. Spenga la radio, se no c'è un'eco fastidiosa. E anch'io ho messo Family Link. Dunque, Mattia ci ha messo 2 minuti e mezzo a craccarlo, ad aggirarlo. E Angelica 4 minuti, perché gliel'ha suggerito Mattia il modo. Sì, però devono accedere al nostro telefono. Sì, no, ma sa qual è il modo per fare? Perché, cioè, certo, lei controlla le app, ma se uno, non glielo suggerisca a suo figlio, se uno non chiude mai le app sul telefono, le tiene aperte, anche se per esempio se si va oltre il limite orario, si può continuare a utilizzare l'app. C'è questo piccolo baco della... quindi ne ho provata un'altra. Ne ho provata un'altra. E questa, Mattia ci ha messo 12 minuti ad aggirarla. Mentre Angelica ha un cellulare, non posso fare pubblicità, con una marca che è un po' incompatibile, va in conflitto con questo tipo di app, che pago, ecco, 70 euro all'anno buttati via, ovviamente. Però non, ecco, no, questo non vuole esibersi dalla verifica personale, quindi sì, chiedere certo. Quest'app cos'è. Però diciamo, questo è un aiuto magari non sono tutti tecnologici come i tuoi figli. Ma non lo sono, che sono. No, mio figlio, per esempio, anche lui ha Family Link, ma non mi sembra che l'abbia girato. Magari non sono capace io di capire se l'ha girato o meno. Devo dire a Beniamino questo, devo dire a Mattia di scrivere a Beniamino questo trucco. No, ma adesso, Andrea, al di là delle vicissitudini, mi piace la sua idea, io la penso come lei. Cioè, lei non abdica, voi non abdicate a dire non mi interessa cosa fanno. È una battaglia, ma provate a fare di tutto per vincere questa battaglia, no? Giustamente. Ne abbiamo sentite troppe e poi, insomma, ci sono stati casi anche di qualcuno che si intrufola, che fa domande, eccetera. Giusto, non sappiamo chi sia, quindi. Però diciamo, questo è un ausilio, perché poi a un certo punto il cellulare a una certa ora lo si stacca. Lo si stacca. Se uno non chiude le app. Però, no, però giustamente, Andrea, per esempio, quel sistema serve a bloccare le app, non so, io penso alla pornografia, a tutti quei siti con contenuti sconvenienti, gioco d'azzardo, su questo sì, cioè non si possono installare certe cose, quindi magari riusciranno a giocare un'ora in più, però fate bene, perché c'è un filtro. Suo figlio invece controlla il suo di telefono. Lei sicuramente. No, lì c'è la moglie, sì. La moglie. Quindi se ricordi bene, lei, che dalla voce si capisce che tipo è, quando suo figlio va sul suo computer, cancelli prima sempre cronologia. Sì. Che poi se suo figlio è un attimo sgamato, anche se la cancella. Manera cancella cronologia e pensa così di avere pulito tutto. Arriva Beniamino e dice: papà, ma dai, basta andare un attimo un po' più in profondità in qualche cartella. E... Va bene, Andrea da Frosinone, ma grazie. Io sposo la linea di Andrea e nella sua famiglia. Quello che dico sempre è che bisogna controllare. Se volete che sia più esplicito, dico spiare, cioè, ma non spiare quando il figlio va via a spiare. Faglielo sapere, guarda che io ti controllo quando voglio il cellulare, dammelo, il codice deve essere conosciuto. Questo fino genitore. A quando il figlio ha 14-15 anni, perché poi ti dà un pugno e ti stende. Sì, però recentemente mia figlia ha cambiato il codice d'accesso, subito, qual è il codice d'accesso? Dimmelo subito, se no non ti ridò il cellulare. Poi sono il primo in realtà a lasciare andare, non è che sto lì a farmelo a farmi dare il cellulare, però sanno che c'è questa possibilità, che è già un primo, secondo me, io la penso così. Leonardo mi guarda come se c'è qualcuno che vuole fare la governante, venire la governante un paio di volte a settimana a casa mia. Ma quant'è la paga? Che ma poi ci mettiamo d'accordo. Sì. Quant'è più o meno? Sfida Luket, secondo i sindacati, un minimo sindacale, una forbice, un... 8 euro mi fa vedere Elisabetta Fusconi. Tra gli 8 e 10. Mi mostra, no, tra 8 gli 8 dita, e 10 subito euro, Elisabetta, sì. Fusconi svizzera, 8, micragnosa, 8, 8 subito, va a ribasso, 8, 8. Tra gli 8 e 10, l'ordinetti, come funziona? L'ordionetti, esita, non si capisce, netti forse. Vabbè, sfida Luket, dai, sfida Luket, sfida DJ Luket, traffico. Manera fantastico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presento. Promo 24. Piemonte, bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte, libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte, gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte, spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Io stiro con il panno sopra, però abito a Rimini, che peccato. Ciao, baci a tutti. Non è comodissimo effettivamente. Beh, però si potrebbe organizzare. La paga oraria prevista nel contratto collettivo domestico, fase di rinnovo, però attenzione, oscilla da 4,62 euro a 8,21 lordi all'ora in base a diversi livelli di inquadramento. Questo è una sfida di DJ Luket, grazie anche a Valentina Melis del Sole 24 Ore. 4,62 euro lordi. Accidenti, ragazzi. Probabilmente dipende quante ore fai, se sei fissa tutto il mese, insomma. Accidenti, vabbè, pensavo effettivamente più sugli 8 euro, 8,21 euro è il massimo, lordi però. Allora, dobbiamo stare un po' meglio, giusto? Con tutta questa rabbia, tensione. C'è troppa cattiveria, È arrivato il professor Janssen, eccoci. Buongiorno, sono venuto a portare un po' di positività in questo studio dove aleggia un'atmosfera rabbiosa. Perché? Ma nera forse che... È l'atmosfera generale che si vive in questo momento con tanti problemi, quindi bisogna liberarci dai sentimenti anche negativi, per esempio l'invidia. L'invidia, ecco. È un sentimento negativo che ci capita di provare nella vita privata e anche al lavoro. Ma noi cosa dobbiamo fare, Alessandro? Che cosa? Cercare di trasformare l'invidia in qualcosa di positivo. Giusto. Positivo. Per esempio? Per esempio, prima di tutto non dobbiamo vergognarci ad ammettere che a volte siamo invidiosi. No? È vero. Ammetterlo è il primo passo per superare l'invidia. Invece dobbiamo fare in modo che questo risentimento nei confronti degli altri sia una spinta per migliorare. Per esempio, se un tuo amico fa un bel viaggio ai Caraibi e pubblica le foto su Instagram, tu puoi essere invidioso. Un pochino, dai, sì. Allora come puoi trasformare questa invidia in qualcosa di positivo? Chiami un hacker, no, gli fai svuotare il suo conto in banca, ma no, e cominci a usare la sua carta di credito. Ma no, ma così questa... poi ai Caraibi ci vai tu. Ma questa stai truffa, trasformando truffa. L'invidia in qualcosa di positivo. Sì, in truffa. Hai un amico affascinante che esce tutte le sere con donne bellissime, e può essere invidioso. Sì. Allora cosa fai? Cosa faccio? Gli rubi il telefono, invia un messaggio a tutti i suoi contatti con scritto: volevo avvisarti che ho la candida. Allora, questo è proprio bastardo dentro. Stai trasformando l'invidia in qualcosa di positivo. Ma positivo per chi? Non per quello. Allora, un tuo collega è arrivato da poco e riceve una promozione prima di te, che sei in azienda da quando? 2000. Dall'inizio, il 99. Don e tu Copino. Sei invidioso. Adesso di Don Copino. Allora, se riesci ad aprire il bagagliaio di questo collega, non è difficile, vai nel garage. Ma no. Ma perché dovrei? De Radio 24, apri il suo bagagliaio, gli metti in macchina dei panetti di droga. Ma no! Chiami la polizia per farlo arrestare. Stai trasformando l'invidia in qualcosa di positivo. Ma assolutamente, è una cosa spregevole. Quindi lo puoi fare con Simone Spezia, con la Maria Pieracetti e così via. Ma no! Questi comportamenti vanno bene. Dobbiamo portarli avanti, perché altrimenti l'invidia mette a rischio la felicità e provoca che cosa? Sì, però la tristezza. Cosa, la tristezza. Allora io vi do qualche consiglio per difendervi dalla tristezza. Vediamo. La tristezza è come il grasso dal motore. Sì, è difficile, ma naturalmente. Sì. Cosa ti rende triste, per esempio? Essere povero. Se invece noi facciamo vedere che siamo ricchi, Cateniamo l'invidia degli altri, ritroviamo la nostra felicità. Ma non è necessario diventare ricchi veramente, basta fare finta. Per esempio, se vedi una Lamborghini parcheggiata in strada, basta che tu vai lì e fai un selfie vicino alla Lamborghini, magari una chiave incidi il tuo nome sulla Lamborghini. Come incidi? Poi te fai un selfie e gli altri pensano, però alla Lamborghini. Oppure, per stimolare l'invidia, mandi tuo figlio giù in strada con un retino da pesca. Tu ti fai un video dall'alto che butti giù dei soldi, dei contanti, banconote. E allora gli altri che vedono il video, questo è ricco, butta giù. Poi tuo figlio col retino va lì a recuperare i soldi e te li riporta di sopra. Quindi l'importante è stimolare l'invidia degli altri per eliminare la tristezza. Solo che se poi gli altri fanno a te quello che tu fai agli altri. Ma è una gara a chi stimola di più l'invidia altrui. Quindi la tristezza è come una zanzara in camera da letto, se non la prendi subito ti tormenta, e invece se riesci a scatenare l'invidia degli altri, sicuramente vivrai più felice e soddisfatto. Questo è il metodo del professor Janssen. Metodo che ha un nome codificato, no, in qualche manuale, non lo so. Metodo della felicità. Diciamo che tutto si condensa nello schiavo sul copino. Nello schiaffo sul copino. Sì, perché certo. Sembra il modo migliore per stare bene quando finale, incroci qualcuno. Quello è possibile sempre le spezie. Tutti i giorni appena arrivo, per stare bene. Lui è sveglio dalle 5, io passo di lì. E tu sei contento, per esempio? Sì, un po' sì. Io sveglio dalle 5. E questo è il tuo metodo, deve indicarti ad stare bene attraverso la sofferenza del Simone Spezia che si alza tutte le mattine alle 5. E passo, pam! E si sta consumando in questo suo svegliarsi alle 5 del mattino. Grazie, professor Janssen. Ci troviamo domani alle 9. Domani alle 9. Domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.